Morte sospetta di Piero Melograni. Pietro Secchia nacque a Biella nel 1903 e morì a Roma nel 1973. Dirigente comunista, durante la Resistenza fu commissario generale delle Brigate Garibaldi. Fu un comunista niente affatto moderato e dunque fortemente critico nei confronti della linea prudente di Palmiro Togliatti. Dal 1946 al 1954 ricoprì la carica di vice segretario del Partito Comunista Italiano, responsabile dell'organizzazione. Una sua biografia, scritta da Miriam Mafai, si intitola «L'uomo che sognava la lotta armata». Questo, difatti, era il sogno di Secchia: impugnare le armi per consentire al proletariato italiano di conquistare il potere. Ma i sovietici non erano affatto d'accordo coi progetti rivoluzionari di Secchia e glielo ripeté perfino Stalin in un incontro a Mosca. La pace mondiale, e dunque anche la pace dell'impero sovietico, era infatti garantita dal rispetto delle sfere di influenza. Guai a pensare di fare la rivoluzione comunista in Italia, appartenente alla sfera occidentale. Miriam Mafai conclude il suo libro su Secchia, avanzando l'ipotesi che lo stesso Secchia sia stato avvelenato dalla CIA. La Mafai scrive a questo proposito che il professor Paolo Biocca e il professor Giunchi erano convinti che a Secchia fosse stato somministrato un potente veleno. La Mafai probabilmente si sbaglia sulla identità di Biocca. Riteniamo infatti si trattasse del fratello di Paolo, Ettore, parassitologo ed esperto in veleni. A sua volta, Paolo Emilio Taviani, democristiano e più volte ministro, ipotizza che Secchia sia stato avvelenato da agenti del KGB durante un viaggio compiuto in Cile nel 1972. L'ipotesi di Taviani appare più convincente rispetto a quella della Mafai, poiché Secchia, che non voleva rinunciare alla rivoluzione comunista in Italia, tanto temuta a Mosca, aveva intessuto rapporti molto stretti con le Brigate Rosse, desiderose di destabilizzare l'Italia, un legame che ai sovietici non piaceva affatto.